Μπίτι του. Σε Μιάμι. Dei del cielo averti qua. Al profumo dei lilla. E lo so. Sì, lo so. So che avrò te. Così potrai dirmi forte, più forte, più forte.